Radio 24 presenta Il sabato del villaggio. Liberi consigli per il fine settimana. Buongiorno, sono le 15 in punto, ci siamo con il sabato pomeriggio di Radio 24 in diretta, il sabato del villaggio. Il villaggio, lo sapete, è il nostro villaggio globale, questa è la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri, insomma i nostri liberi consigli per il fine settimana. Nella terza ora, dalle 17 alle 18, il nostro consueto appuntamento con RadioTube insieme a Daniele Bellasio per tutta l'attualità della rete e dalla rete. Per tenerci compagnia, il numero per i vostri SMS, ma anche WhatsApp, 349-238-6666, 349-238-6666, ma c'è anche il mio account di Twitter, @MartaCagnola, l'hashtag cancelletto ISDV, come le iniziali di Il Sabato del Villaggio. Ma scopriamo i temi della prima ora che passeremo insieme, qual è il filo conduttore? Aspettando il sole, qui continua ad andare, a venire, il temporale, adesso è tornato brutto. Aspettando il sole andremo alla scoperta di un aspetto molto curioso che riguarda il meteo. Ne parleremo col nostro Enrico Pagliarini, vale davvero la pena aspettarlo. Le uscite al cinema del fine settimana per tutti quelli che si stanno lamentando della pioggia, almeno qualcosa di interessante al cinema c'è. Col nostro gastronauta invece andiamo in spiaggia, perché c'è chi si sta godendo comunque le giornate al mare con o senza temporali estivi. Ma prima, con il brutto tempo, beh, è proprio ora di una bella maratona di serie TV. Prometto che non faremo spoiler, non daremo anticipazioni di Game of Thrones. Stavamo parlando di serie TV fino a qualche istante prima della sigla, perché io mi stavo facendo dare un po' di consigli personali dal nostro ospite che ci è venuto a trovare, Diego Castelli, fondatore di serialminds.com, anche channel manager della TV Iris, che voi conoscete bene. Iris fa film, ma lui è anche molto appassionato di serie TV. @DiegoCastelli82 per chi volesse seguirlo su Twitter. Buongiorno Diego. Buongiorno, ciao a tutti. Allora, io qui ho una lista di consigli miei personali che mi sono fatta dare su misura che da non Diego. Beh, ma a me piacciono quelle cose un po' più femminili, un po' altro che Game of Thrones. Senti, ma Game of Thrones come sta andando questa stagione? Te lo chiedo subito. Ma sta andando molto bene, non facciamo spoiler di nessun tipo. Era una stagione chiave questa, perché era la prima stagione che non era legata ai romanzi di George Martin, e quindi erano tutti lì in attesa di capire quanto gli autori sarebbero riusciti a carpire da lui un po' e quanto si sarebbero inventati loro. Boh, vedremo quando uscirà il libro nuovo. Si è assistito però al tentativo di trasformarla in una serie TV, da un certo punto di vista un filo più tradizionale, cioè negli anni passati avevamo, su 10 episodi, ne avevamo magari tipicamente secondo e ottavo clamorosi, e poi il resto era grandi dialoghi, però storie che andavano avanti un pochino più lentamente. Quest'anno si vede il tentativo, riuscito o no, quello è giusto che lo decida anche ogni spettatore per conto suo, di fare invece una cosa per cui ogni settimana c'è almeno un momento di grande impatto. Devo dire che sui social c'è, cioè, almeno un momento in cui social si scatenano. Non se ne esce di questo Game of Thrones, che allora prosegue allegramente con la gente che litiga, perché si dà anticipazioni. Appena prima di entrare in studio c'è Claudia Schiattone, che si occupa dei programmi sportivi, che è di là in redazione, che ha appena fatto un'anticipazione a Cristian Goldoni, che ormai conoscete perché si occupa del sabato del villaggio e di RadioTube. Avevo paura che si picchiassero, Cristian era arrabbiatissimo. Come si arrabbiano per questi spoiler gli appassionati di Game of Thrones? Però ho bisogno di un po' di consigli. Allora, tempo così così. Quando piove, d'estate, bisogna avere secondo me sempre qualche serie TV magari completa da vedere e da recuperare nella stagione. Guarda, io non aspetto nemmeno che piova. Anche sto dentro a prescindere. Non c'è. Anche quando c'è il sole. Allora, dimmi secondo te qual è la serie TV da recuperare per questa stagione televisiva, da assolutamente avere per la prima maratona di serie TV estiva. Allora, guarda, da fare a casa. Io la serie TV nuova di quest'anno, che sorprendentemente per quelli che sono i miei gusti ho visto con più gioia, è stata American Crime Story. Che è serie, diciamo, di true crime, chiamiamo così, non proprio perché il true crime prevede una parte più o meno di documentario, però racconta la storia di O.J. Simpson. È una serie antologica, quindi che la prima stagione ha raccontato questa storia e la seconda stagione ne racconterà un'altra, sempre legata al legal, al crime, a eventi diciamo che hanno tenuto banco nell'opinione pubblica americana. Questo è probabilmente il processo più famoso della storia americana e forse non solo, perché quello O.J. Simpson ha tenuto banco veramente per un paio d'anni con dirette fiume, certo, perché certo. Era il grande personaggio, un po' come se da noi arrestassero Totti, chiaramente staremmo certo. Tutti lì a seguire cosa succede. Mi ha stupito perché, a fronte del fatto di essere un crime, che di base non è il mio genere preferito, e a fronte del fatto di raccontare una storia che bene o male conosciamo, magari noi non come gli americani, però sappiamo com'è andata sappiamo com'è andata a finire. E invece sono 10 episodi che tengono lì in un modo veramente sorprendente, con una valanga di attori bravissimi che partono da John Travolta, che non è il protagonista ma è quello più famoso. C'è Cuba Gooding Jr., vincitore di Oscar, che fa O.J. Simpson. C'è dentro David Schwimmer, ex Ross di Friends. Sorprendentemente credibile in una parte molto drammatica, lui che ha sto faccione bonaccione che non si può guardare se non ridendo, invece no, è stato molto bravo, e altri insomma di quindi tutti appassionati di legal, di crime, io consiglio di recuperarla, perché, e tra l'altro, è ottima da vedere tutto in una volta. Perché per invece gli utenti di Netflix, che maratona consigliamo a quelli che sono abbonati a Netflix? Allora, Netflix è stato un anno importante, perché comunque è stato l'anno dell'arrivo in Italia, e secondo me è stato anche un anno importante perché, paradossalmente, mi scuseranno, hanno anche cominciato a fare qualche serie non bellissima, che era anche ora, perché adesso non facciamo altro che tirare fuori cose fantastiche, però a volerne fare una settimana a un certo punto, anche per statistica. Sì. No, a parte gli scherzi, dico due cose. Quest'anno c'è stata Jessica Jones, che è stata chiamiamolo lo spin-off di Daredevil, nel senso, però il secondo capitolo di questo loro progetto che stanno portando avanti con la Marvel. Jessica Jones probabilmente è stata inferiore a Daredevil, che è, diciamo, la serie originale tra virgolette, però insomma il livello è stato comunque alto, ed è stata un bel tassello in questo puzzle che poi andrà avanti e si potenzierà. E in più mi piace citare Master of None, per gli appassionati di commedie, mi piace citare Master of None con il nostro amico Aziz Ansari, che tu ricordi benissimo da Parks and Recreation. Adoro. Gli hanno dato in mano una serie con cui fare lo scrittore, il regista, l'attore, ha tirato fuori una cosa molto personale, come va di moda, se vuoi, in questi ultimi anni, tra Louis C.K. e altri comici americani che fanno cose molto autobiografiche al limite di portare i propri genitori in camera, come ha fatto lui. E secondo me, tra le comedy nuove di quest'anno, è stata una delle più carine. Non è la comedy con cui ci si sbellica dalle risate, non è pensata per fare quello. Però è graziosa, è gradevole, ti dà tanti spunti anche di riflessione su un certo tipo, perché poi lui, essendo un indiano nato in America, però da famiglia trapiantata, insomma, ci sono tanti elementi di interesse che vanno oltre il semplice strappiamoci una risata. Ma no, infatti mi sono divertita molto. Chi è abbonato a Netflix, invece, gli utenti di Infinity. Agli utenti di Infinity utenti cosa Infinity? È arrivato di recente The Girlfriend Experience, che è una serie molto particolare, tratta da un film di Steven Soderbergh che all'epoca aveva coinvolto Sasha Grey, che era un ex pornostar e quindi aveva fatto abbastanza scalpore per questo, ed era un film che trattava di questa ragazza che, in maniera del tutto indipendente, senza nessun tipo di costrizione da parte di nessuno, decideva di fare la escort. Accidenti. Quindi, diciamo, una prostituta alto bordo, non so, possiamo chiamarla come vogliamo, perché era una cosa che le dava soldi, che le dava indipendenza, che le dava. Il film era un po' particolare, anche un po' pesante, probabilmente molto meno mainstream di quello che facesse pensare lo scandalo generato dal nome della protagonista, eccetera. Invece la serie, che è un pochino più lineare dal punto di vista narrativo, un pochino più fruibile, è però un bel tentativo, secondo me, di raccontare una cosa che è potenzialmente scabrosa, però senza ricercare lo scandalo in quello che la protagonista fa, bensì in quello che è il rapporto tra quello che lei fa e decide di fare della propria vita e del proprio corpo e quello che le succede intorno. Cioè ci mostrano in maniera abbastanza chiara che il problema non è tanto in quello che fai, ma in come quello che fai viene percepito all'esterno, tanto che quelli che poi ti giudicano e quelli che decidono che quello che fai tu è sbagliato diventano i veri cattivi, perché alla fine tu non fai niente di male a nessuno se non portare avanti un progetto, una scelta libera, una, diciamo, scelta tua. Nel suo caso. Poi è chiaro che è una serie anche pesante, una serie anche impegnata da un certo punto di vista, e sfora abbastanza rapidamente anche nel thriller, ci sono intrighi, non è semplicemente, diciamo, un pamphlet così, ovviamente. Assolutamente per grandi, però che dà qualche spunto interessante, secondo me. E invece per chi volesse guardare delle serie in famiglia, perché queste direi che nessuna di queste è particolarmente indicata. No, effettivamente no. Stavo ripensando a quello che avevano detto, no, nessuna di queste, lasciamole fuori che poi... No, beh, per chi vuole rimanere in famiglia, se si deve recuperare, secondo me ha senso andare sulle grandi comedy che ormai hanno raggiunto un tot anche di anni di età, da The Middle a Modern Family. Quindi famiglie che guardano famiglie. Famiglie che guardano famiglie, che fanno cose da famiglie, insomma, in modo ce n'è. Se no, parlando neanche con la mia fidanzata, che saluto, è a fianco, nella stanza a fianco. Ciao. È lei che ha dato l'idea, lui diceva, ma non piace no, insieme, tanto. Perché insieme guardiamo Once Upon a Time, che a me non fa, che a me non fa impazzire, a lei piace molto di più. Beh, senti, bisogna trovare un compromesso. Assolutamente, assolutamente. Anche quella è pieno di fiabe trasposte in serie TV, anche quella sa essere tostina ogni tanto, però se te la vedi la mamma con i bambini, poi però si possono spiegare, guardare delle cose, si, ecco, possono guardare. Sì, anche magari in Modern Family o in The Middle certe cose vanno spiegate, sì, vanno però, spiegate, però non sempre... ci sono scandali. No, assolutamente. Non ci sono scandali. O avessimo detto un titolo in italiano, ma sono tutti... Però forse è anche giusto così, eh? Ma è sì, anche dai, giusto così. Allora, c'è un ascoltatore o ascoltatrice che al 349-238-6666 ci chiede: che ne pensate della serie Pretty Little Liars? Non spoilerate, per favore. Allora, la serie, cioè, Pretty Little Liars è una serie per teenager. E non essendo io un teenager, diciamo che non è il massimo mio pane. Però devo dire che nella mia esperienza con Serial Minds ho visto in realtà un grosso seguito da parte appunto del suo target specifico, più di altre serie che si rivolgono alla stessa, allo stesso target, volendo. Quindi devo riconoscere una forza specifica nella serie di rivolgersi a un certo tipo di pubblico e di appassionarlo. Io ho quasi 34 anni, sono calvo, non mi viene da guardare le ragazzine che si pettinano, che fanno i loro intrighi a scuola. Però è ben fatta. Ha la sua forza. Quando ci siamo visti l'ultima volta abbiamo parlato un po' di Twin Peaks. Continua l'attesa per Twin Peaks. Non hanno ancora cambiato idea. Si fa Twin Peaks? Si fa assolutamente. Anzi, hanno cominciato a tirare fuori i primi poster, le prime chicchine, che soprattutto, visto che parliamo di recuperi estivi, per ora, salvo ulteriori invii, la nuova stagione di Twin Peaks dovrebbe arrivare a primavera 2017. Quindi se avete bisogno di un'estate con pochi impegni, soprattutto seriali, per recuperarla, questa è l'estate per farlo, per riguardarsi quella la vecchia, che alcuni non hanno visto perché sono giovani, alcuni semplicemente non se la ricordano bene, ma io stesso, se vuoi, cioè io l'ho vista ormai tanti anni fa, devo assolutamente rivedermela prima di quella nuova. E più che altro l'attesa è tanta perché ci sono stati un po' di tentativi negli ultimi tempi di recuperare vecchi format, vecchi concept, e gli esperimenti sono andati spesso male. E alcuni, ti riferisci a X-Files? Ma X-Files è uno che in realtà a tanti vecchi fan è piaciuto, a me devo dire non tantissimo, perché su 6 episodi ho trovato il primo e l'ultimo buoni, incalzanti, gli altri sono un po' mosci, onestamente, un po' troppo vecchio stile. Però in realtà non è neanche tanto quello, cioè ti dico, fra poco esce MacGyver, la nuova MacGyver, MacGyver. E ci sono già i trailer della nuova MacGyver, aspettiamo di vederla. Però mette un po' d'ansia, mette un po' di... Cioè, lasciateli stare, come dire. Cioè, trovatevi delle idee nuove. Però Twin Peaks, cioè, con David Lynch sempre in cabina di regia, con tutti i vecchi protagonisti, insomma, è giusto concedergli un pochino più di fiducia rispetto ad altri. Vediamo, insomma, siamo qui, aspettiamo. Beh, sono molto contenta di aver fatto questa carrellata sui recuperi estivi, anche perché io un po' ne devo recuperare. Devo dirti che American Crime Story ho paura di avere un po' d'ansia, che mi mette un po' di tensione. L'ansia te la mette, però è ansia giusta, cioè ansia è l'ansia giusta che ti aspetti, allora, da una serie del genere. È, secondo Diego Castelli, la serie che dobbiamo recuperare tutti. Grazie Diego, fammi ripetere che tu, vabbè, a parte Channel Manager di Iris, che va bene, quindi Iris va bene, canale, sì, che va contenti. Benissimo, è il fondatore di serialminds.com, quindi se volete andare a trovare un po' di cose su tutte le serie, anche l'ascoltatrice o l'ascoltatore, secondo me è un'ascoltatrice, che ci ha chiesto di Pretty Little Liars, Pretty troverà Little Liars, lì. Cioè, non lo so quanto trova, però da, secondo secondo me trova anche su serialminds.com. Chiocciola Diego Castelli 82 su Twitter. Grazie per essere stato con noi, Diego. Alla prossima, così grazie ci alla prossima. Segnali ancora un po'. Recuperiamo e poi parliamo. Infatti, recuperiamo. Dopo il recupero. Grazie, Diego. Noi ci ritroviamo tra pochissimo. Dopo una breve pausa, parleremo col nostro gastronauta. Tra poco. Smao Research to Business ti aspetta a Bologna Fiere il 9-10 giugno. www.smao.it vi presenta Il sabato del villaggio. Mi stavo distraendo a parlare ancora con Diego, perché io ogni tanto gli chiedo ancora delle serie. Io mi sono segnate quelle che devo recuperare io, che mi piacciono le comedy e le cose anche un po' così da ragazza. Devo recuperare Casual e devo recuperare Flesh and Bone. Adesso non so come sono, perché me le ha consigliate adesso Diego, e poi vi dirò, me le guardo, perché sono anch'io pronta per le maratone di serie TV quando di notte si riesce a dormire poco per il caldo, quando di giorno ci sono i temporali. Ma io l'ho detto, in questi giorni in cui tanti hanno fatto il ponte, comunque nonostante il meteo un po' avverso, in tanti sono andati in spiaggia. E ci andiamo anche noi, volete sentire? Andiamo in spiaggia. No, quest'anno al mare non andrò, con te sulla spiaggia. No, l'altro anno ho visto come andò, con te sulla spiaggia non ci sto. No, quest'anno non andrò con te sulla spiaggia, perché sulla spiaggia io ci vado con Davide Paolini, il nostro gastronauta. Ciao Davide! Ciao, io mi aspettavo stessa spiaggia, stesso mare. Era una o l'altra, dai, era una di queste. No, ma anche perché io ti porto subito sulla riviera romagnola. Ragazzi, sono zone tue, qui certo. Io vado dove c'è l'esperto, non solo gastronauta, ma anche romagnolo. Ma guarda, oggi ti consiglierei polenta e costine di maiale piuttosto che andare sulla spiaggia, però... Magari anticipiamo un po' i tempi, cominciamo a consigliare qualcosa ai nostri radioascoltatori che sono ora messi in contatto con noi. E allora posso partire? Partiamo, perché tu dici che insomma in spiaggia, allora adesso il nostro immaginario dei vecchi film era che uno si porta la teglia col cannellone in spiaggia, no, però si può anche mangiare bene. No, beh, diciamo che la teglia è ancora una roba molto simpatica, portarla magari se vai nella spiaggia libera. Certo. Se vai nelle spiagge libere, beh, no, non c'è altro da fare, ma una tantum è sempre divertente, magari andare con la teglia delle melanzane, magari la melanzana alla parmigiana, cioè quelle che si mettono sul forno e poi sono pronti, oppure i cannelloni con la besciamella, ecco. Si potrebbe mettere anche quello, però sai, ora ci sono anche dei posti sinceramente un po' più comodi, e allora io ti porterei prima in un posto molto romantico, subito. nelle Marche, uh-huh. A Porto Novo Adriatico, dove c'è questo locale proprio sulla spiaggia, di sera completamente deserto, e si chiama il Sushi Clandestino, ed è di un famoso chef che e Moreno Cedroni, che tanti anni fa si è inventato il sushi all'italiana, e quindi l'ha chiamato anche, scritto in maniera diversa. Però questo posto secondo me vale la pena di sera, perché è molto molto romantico, c'è una chiesetta con una luce, insomma, anche se diciamo il tempo non è granché, però secondo me vale la pena sempre di andare in questo posto. Beh, vedo una, copia, lo sto guardando il sito, effettivamente ha un suo perché, sì. Ma bisogna andarci in coppia, perché da soli, sì, insomma... No, un po' malinconico. Anche in gruppo non ci si può andare, perché è molto piccolo, e allora proprio qui è un tête-à-tête, quindi facciamo. Invece chi è che vuole mangiare un po' più allargato, allora io lo porto da Guido a Rimini. Da Guido a Rimini è, diciamo, Miramare Rimini, proprio al confine... E anche qui si mangia proprio sulla spiaggia, quindi de pied dans l'eau, come si dice, come dicono i francesi, sembra piedi nell'acqua, non è molto romantico, però detto alla francese ha quel tocco in più che hanno sempre i francesi. Non è così? Sì, figurati, io sono appassionatissima, quindi sono d'accordo. E allora qui si può mangiare un diciamo pesce crudo, però del pescato del mattino, dell'Adriatico, quindi niente che fare con i soliti pesci che mangiano tutti quelli ai sushi bar giapponesi. Qui si mangia roba locale, roba tradizionale, quindi si possono mangiare diversi pesci che magari sono molto più sani perché contengono omega 3, che sono i famosi pesci azzurro. Quindi tutta, diciamo, la storia dei pesci azzurri, comprese anche le acciughe, poi comprese anche, le chiamano povaracce nella zona di Rimini, le pavarazze. Un tempo c'erano dei venditori ambulanti che dicevano poverasse donne quando andavano nei piccoli paesi a fare la spesa. E a Rimini addirittura c'è una, nella piazza, in una delle piazze principali, c'è proprio un posto ancora bello storico dove c'era il mercato delle poveracce. Ah, che significa? Allora ecco. Allora ti faccio subito la domanda a 10 milioni di dollari. Si pensa che nei posti estivi in estate si mangia il pesce migliore. Uno diceva: io vado in vacanza al mare d'estate perché lì mangio il pesce migliore. Luogo comune o verità? Grossa castroneria. Acci. Perché innanzitutto, cioè, nei posti di mare d'estate c'è molto affollamento, quindi sicuramente non arrivano mai col pesce pescato di mattina. Secondo, in tutto l'Adriatico c'è il fermo biologico, per cui il pesce azzurro proprio nei mesi, diciamo quelli hot dell'agosto, non si può pescare. Quindi tu capirai che l'uno e l'altro, tra la domanda che cresce e il fermo biologico, dimmi tu tutto quel pesce da dove può arrivare. Poi non solo, d'estate non si mangia il pesce migliore, e il pesce migliore si mangia d'inverno, come quella famosa canzone di Loredana Bertè. È il mare d'inverno, di Enrico, ecco. Ruggeri, peraltro, del nostro Enrico. Giusto. E ecco, bisognerebbe andare d'inverno a mangiare il pesce. D'estate sì, eventualmente ci sono dei posti dove si mangia anche, non voglio dire che tutti i ristoranti sulla spiaggia diano pesce congelato sul gelato, anche se oggi poi bisogna mettere il famoso asterisco, quindi c'è la penale, chi è che sgarra, quindi bisogna stare molto attenti. E poi un altro avvertimento oltre questo dell'estate: chiedete sempre se il pesce azzurro è abbattuto, perché il pesce deve essere tutto abbattuto a meno 24 gradi, perché c'è il famoso animaletto, l'anisakis, che può creare non pochi problemi, addirittura di intervento chirurgico. Quindi chiedete al vostro ristoratore se all'abbattitore. Racconto un aneddoto. Io per 2 anni andavo a mangiare nello stesso posto, in un piccolo paese della Liguria, non gli voglio fare pubblicità, e dopo 2 anni mangiavo sempre le acciughe. Mi è venuto lo sfizio, ho detto: ma dico, l'avrei abbattuto. E lui mi ha detto: ma cos'è l'abbattitore? Io non lo so, paura. Non lo conosco. Dice: io prendo il pesce dei pescatori. Dico: sì, vabbè, il pesce dei pescatori non è che sia molto diverso dall'altro che compra poi in pescheria, perché se non sono state tolte tutte le budelle, tutte le interni, immediatamente dopo pescato, ha gli stessi problemi. Quindi, come vedi, bisogna fare molta attenzione. Il pesce fa bene, il pesce contiene omega 3, il pesce leggero, però c'ha anche qualche problemino. Allora, intanto prima di continuare nel viaggio voglio salutare Ornella, che ci manda una cartolina, praticamente ci ha fotografato la spiaggia. Saluti da Lido di Jesolo, tempo bellissimo. Grazie Ornella, mi hai fatto anche un po' sognare. Quindi intanto scopriamo che da qualche parte il tempo è anche bello, perché questi temporali che vanno e che vengono, almeno a Lido di Jesolo si stanno godendo la giornata. Beati loro. Ecco. A Jesolo c'è un posticino dove si mangia bene. Non è proprio sulla spiaggia, però puoi consigliare Ornella da Omar. Omar è un ristorante di pesce di Jesolo, secondo me, di buon livello, di ottimo livello. Quindi può andare la nostra Ornella a mangiare lì. Però io ora ti porto anche da altre parti. Certo. Ti porto a Riccione. Come non si può non andare a Riccione? A Riccione da Azzurra, da Maurizio. Bene, qui veramente quando uno entra vede tutto questo pesce che ancora sbalzella un po', e quindi si vede che è ancora vivo, quindi si può andare tranquillo. Qui consiglio un piatto che io adoro, sono le canocchie crude. E non è facile trovare le canocchie crude, perché c'è tutta una tecnica per poterle servire in questa maniera, perché se tu le lavori ti sbucci tutte le mani perché sono piene di punzoni, quindi sicuramente uno si fa molto male. Quindi ci vuole una tecnica sopraffina per poterlo fare, e il cuoco di Maurizio ci riesce perfettamente, e poi si beve molto bene da Maurizio. Ora ti porto in Toscana, però ti porto sempre sulla sabbia, ti porto a Bibbona. alla Pineta da Zazzeri. Zazzeri è un pescatore sia di acqua dolce che di acqua che di mare, quindi un grandissimo conoscitore di pesce che usa molto la padella, quindi non usa cotture sofisticate, ma usa tutte cotture a base appunto della padella, che secondo me con la brace sono i due sistemi che io ritengo i più sani, perché non ci sono sughi, non ci sono aggiunte, quindi sono veramente nature, un po' come il pesce crudo, insomma, perché il pesce crudo, se è ben fatto, se è servito bene, se soprattutto il pescatore o la pescheria lo hanno servito, il cuoco non fa proprio niente, perché quando si dice ho mangiato benissimo in quel ristorante il pesce crudo, beh, il merito non è certamente del ristoratore o dello chef. Certo. Lo chef lo mette sul piatto, certo, e di chi gli ha fornito il pesce, a meno che non sia un cuoco giapponese che ha l'arte del taglio, e quindi i giapponesi di un pesce te lo tagliano perfettamente nel verso giusto, i cuochi italiani un po' meno. Intanto i nostri ascoltatori si stanno scatenando, ci chiedono un sacco di consigli, quindi Davide, io ti proporrò nei prossimi appuntamenti di tornare sulle spiagge italiane, perché c'è chi si sta già segnando i posti in cui andare a cenare nelle varie località di mare. Abbiamo ancora tempo per un paio di consigli. Vabbè, allora un paio di consigli, io ti porto a Ischia, Forio di Ischia, da Umberto a Mare, c'è una terrazza bellissima. Al sud c'è sole, c'è bel tempo, quindi non è sulla spiaggia, però c'è una terrazza che dà proprio a picco sul mare, quindi è veramente incredibile, perché tu sembra di essere in barca sul mare, quindi credo che sia un altro posto sicuramente dove andare. Visto che continuiamo al sud, ti porto a Marina di Ragusa, come la chiamano lì, Ragusa Beach, ti porto da Carmelo, lui è proprio sulla spiaggia. E qui consiglio un couscous, perché fa un grandissimo couscous. E poi ti porto anche sul fiume, perché è giusto che ti porto anche sull'acqua dolce. Ti porto sull'acqua dolce a Valeggio sul Mincio, alla vecchia bottega di Borghetto, altro posto romantico. Tu sai che lì c'è la storia del tortellino come gesto d'amore. E quindi anche questo è un altro posto romantico. E poi anche ti posso portare ancora Danino a Lettoianni, in Sicilia. Ah, io vado da quelle parti presto, quindi me lo segno. Allora, se vai a Taormina, sì, vai a Taormina, vado a Taormina presto. Non mangiare a Taormina, mm-hmm, fai pochi chilometri, vai Danino a Lettoianni e sicuramente mangerai in maniera straordinaria, soprattutto il tonno, ma tonno locale, e poi c'ha tutta una serie di altri pesci. Dimmi che ti manda Picone, e quindi sicuramente ti tratterà molto ma molto bene. E poi ancora ti posso portare sempre in Emilia, in Romagna, ti posso portare sempre alla Madonnina del Pescatore, perché il proprietario del clandestino, Moreno Cedroni, ha un ristorante a Senigallia che si chiama appunto la Madonnina del Pescatore. Di fronte alla Madonnina, però c'è la Madonnina è sulla sabbia, e Senigallia devo dire che è uno dei posti di mare dove in Italia si mangia meglio, perché oltre la Madonnina del Pescatore, sul porto di Senigallia c'è Uliassi, e sono due veramente ristoranti di grandissima qualità. Poi un'ultima cosa, non chiedete sempre vino bianco con il pesce, è un luogo comune, cercate di osare. Cercate di farvi servire un pino nero, magari servito a 13 gradi, fresco, freddo, o un lagrange. Vedrete che sicuramente godrete anche il pesce senza farvi servire il vino bianco. Magari qualche uomo di sala o il sommelier vi guarderà male, ma voi non vi importa, servitelo decisamente. Se fanno storie dite che ve l'ha consigliato il gastronauta. Ah, sono d'accordo, siamo un po' trasgressivi. Davide, allora dobbiamo assolutamente tornare ai consigli su come mangiare bene al mare, perché stanno arrivando un sacco di messaggi. Al prossimo sabato, ciao Davide! Ciao, buona giornata. Allora, intanto ci arrivano ancora foto live della situazione del tempo. Mi è arrivata anche una foto da Seregno in Brianza, è tornato il sole anche in Brianza. Vabbè, ma io tanto sono qua in studio, non me lo posso godere il sole in Brianza oggi. Noi tra poco parleremo proprio di meteo, lo faremo in maniera molto particolare, in maniera molto curiosa, quindi rimanete con noi, perché ci sono delle curiosità che riguardano la tecnologia, non vi anticipo niente, a tra poco. Il sabato del villaggio. Sto guardando tutti i vostri messaggi al 349-238-6666 via SMS ma anche via WhatsApp. Sono veramente tanti, tanti per il nostro gastronauta che effettivamente dovrà per forza tornare a parlare di serie TV. Poi c'è Davide che ci scrive, a proposito invece del primo argomento che abbiamo trattato, le serie TV. Mamma mia, che colpo al cuore mi hai dato, Davide, con questo messaggio. Mi piacerebbe rivedere una serie televisiva vecchissima di quando ero piccolo. Truck Driver, non riesco a trovarla in italiano, mi potete aiutare? Cerchiamo di capire, perché io sto un po' guardando, non mi pare di trovare tracce di Truck Driver, che era bellissima, era quella del camionista, Greg Evigan si chiamava l'attore, bellissima, bellissima, c'era il camionista con la scimmietta, proprio primi anni 80, me la ricordo anch'io, ero piccola, mi piaceva tanto. Cercheremo di capire se è ancora possibile recuperare in italiano Truck Driver. Adesso però è davvero il momento delle nostre tecnologie e io vorrei introdurre Enrico Pagliarini così. Fa subito un po' Milano da bere, vecchio spot del Ramazzotti. In realtà questa canzone, questo brano che si intitola Birdland, era di un gruppo famosissimo che si chiamavano Weather Report. E noi parliamo proprio di meteo, previsioni del tempo, situazione del tempo. Io ho detto a Enrico Pagliarini, Enrico, anzi come lo chiamo io, Paglia, quando noi sabato parliamo, il nostro tema sarà aspettando il sole. Che cosa ti ispira in fatto di tecnologie aspettando il sole? Allora io evoco Enrico Pagliarini, che non è in studio con me, è da qualche parte nel mondo, ma è sicuramente con noi. Enrico, cosa ti ha evocato? Ci sei? Certo, buongiorno. Ma come se fossi qui? Ma è come esatto. Se fossi però sono qui? Sono in un luogo, adesso non so se a Milano piove, io sono in un luogo dove stranamente piove, stranamente per modo di dire, visto ecco, che qui piove. Possiamo dire che sei in Emilia, senza dare altre... Vicino all'Emilia, vicino. Piove. Ok. Sì. Allora, raccontami un po', che cosa ti ha ispirato questa mia provocazione? Bah, allora, la cosa, ovviamente la cosa più semplice è andare su un sito internet o su un'app per vedere, per curiosare il tempo. Io faccio dei test ogni settimana sulle app e non tutte sono sincronizzate. C'è chi effettivamente, in base anche alla mano dell'esperto meteo, alcune ci azzeccano, altre no. Perché c'è una componente umana ancora molto forte. Però se uno vuole andare un po' più, un po' oltre, c'è un fenomeno che è diventato, se vogliamo, anche un fenomeno sociale, poi spieghiamo per quale motivo, di persone che si installano in casa, in modo molto semplice, una cosa molto facile e anche abbastanza economica, una stazione meteo e in qualche modo partecipano tutti assieme, sono oramai migliaia, o direi forse milioni in tutto il mondo, perché possiamo estenderlo a tutto il mondo, partecipano in qualche modo alla comunità scientifica. Cioè un meteo collaborativo, come si suol dire adesso. Sì, allora diciamo una cosa, le previsioni sono una scienza molto complessa e nonostante i satelliti, i supercomputer, i modelli matematici sempre più sofisticati, è una cosa che va fatta fare ai professionisti. Più ci si allontana dal giorno dopo e minore è l'affidabilità della previsione, però qualche cosa, diciamo, in casa si può fare, un po' per curiosità e un po' anche per contribuire. Allora, volevo introdurre l'ospite che abbiamo scelto per oggi, che è Daniele Bordon, che è il titolare di LD Shop, LD scritto per esteso, .it, che è un negozio online specializzato proprio in strumenti meteo. Buongiorno Bordon. Buongiorno. Allora, diciamo subito che cosa uno si può comprare, si può mettere in casa, anche con quale spesa, per farci che cosa? Cioè una stazione meteo, che cosa fa? Allora, una stazione meteo, diciamo che principalmente non è tanto per fare le previsioni meteo quanto per fare un'osservazione meteo. Una stazione meteo si può utilizzare per sapere quanta pioggia è caduta in un determinato periodo, che temperatura c'è, il vento, la direzione e la velocità. Quindi diciamo che principalmente non può essere usata con un'affidabilità precisa per fare le previsioni, in quanto una stazione meteo non ha la situazione globale. Per la situazione globale è necessario usufruire di un modello matematico globale come quello europeo o americano. Io sono curiosa di sapere, sono curiosa di sapere chi sono i clienti di Daniele, sì, cioè chi viene allora, in negozio o compra online una stazione meteo. Certo, i clienti sono dall'appassionato meteo che vuole sapere dopo un evento meteo cosa è successo, quanta pioggia è caduta, che temperatura c'è, quando ha nevicato, eccetera. Quindi sono appassionati meteo proprio della materia. E questi appassionati possono inviare i dati anche a reti meteo gratuite che ospitano questi dati e possono condividerli con tutta l'Italia praticamente. Quindi uno può vedere che tempo fa in una determinata città, in una città dove vuole andare a villeggiare, quindi può vedere se c'è bel tempo, se piove. Adesso si usano molto anche le webcam, quindi si associa alla stazione meteo la webcam e si fa una visione completa della situazione attuale. Sì, diciamo una cosa, Bordon, che comunque un minimo di indicazione, se non affidabile come quella dei sistemi meteo più sofisticati della professione, la stazione meteo me la dà, giusto? Certo, una stazione meteo dà un'indicazione della tendenza meteo fatta con l'andamento della pressione. Quindi se la pressione sta calando, naturalmente la stazione meteo con un algoritmo interno riesce a capire se il tempo sta peggiorando, se il tempo sta migliorando, eccetera. Ci sono delle stazioni meteo più costose, allora saliamo. Ecco, sono curiosa di sapere i prezzi. Esatto, allora si parte dai 150 euro di una stazione base fino agli 800, 1000, 2000 euro. Poi andiamo sul professionale dove vengono utilizzate per campo agricolo, eccetera. Quindi certo. una stazione meteo, diciamo, più costosa è in grado anche di fare previsioni migliori perché ha un algoritmo che prende in considerazione tutti i dati meteo, mentre quelle meno costose si basano solo sull'andamento della pressione atmosferica. Ma che cos'ha una stazione meteo? Cioè, quali sono gli strumenti che ha una stazione meteo? Gli strumenti che ha di base, che sono quelli che ha una stazione da 150 come quelli che ha una stazione da 800 euro, sono quelli del termometro, quindi temperatura e umidità esterna, la pioggia, quindi il pluviometro, quindi che mi dà l'intensità attuale e quanta pioggia è caduta in tutto, e l'anemometro di velocità e direzione del vento. Sì. Noi le stiamo chiamando stazioni meteo, in realtà sono oggetti abbastanza piccoli, non sono cose giganti. Ah, certo. Stazione meteo non potrebbe pensare. Certo, diciamo che dalle più compatte si va a stazioni che hanno uno schermo di 20 cm e dei sensori che non superano i 30-40 cm, l'anemometro col suo braccetto non supera i 30 cm, quindi sono tranquillamente installabili a casa. Sì, sì, io prima ho detto c'è anche un aspetto sociale, perché lei ci ha detto che alcune, se non ormai tutte queste stazioni meteo si possono collegare ad internet. Una volta che sono collegate ad internet posso collegarmi con lo smartphone, con la mia app, posso controllare la mia stazione meteo. Però c'è un aspetto interessante, che ci sono oramai delle reti, alcune che sono pubbliche o comunque non sono proprietarie, ma alcune sono anche proprietarie legate a certi produttori, che mi fanno vedere in tempo reale quello che sta succedendo nel mondo. Io poco fa ho controllato un paio di queste reti e ho visto che cosa stava succedendo in un'altra città. Esatto. Ci sono appunto gli appassionati che, se vogliono, si tengono i dati per sé, oppure mandano i dati attraverso degli apparati che abbiamo, di cui in alcune versioni abbiamo l'esclusiva per l'Italia. Questi apparati, collegati alla stazione meteo, collegati al router semplicemente, inviano i dati a queste reti meteo, dove possono essere condivise. C'è una rete molto importante in Italia che è Meteo Network, che oltre a inserire i dati fa anche una valutazione della stazione meteo per capire se è idonea ad ospitare i dati, quindi i dati che vediamo sono di una certa qualità, e questi dati possono essere utilizzati anche per la previsione a breve termine di un'inondazione, eccetera, perché io vedo con una rete abbastanza capillare quanta pioggia sta cadendo in un determinato posto. Beh, devo dire che se anche fosse solo un hobby, è un hobby secondo me molto sano, e anche in famiglia bello, perché può servire a insegnare un sacco di cose ai figli. Certo. Diciamo che gli appassionati valutano molte variabili, ad esempio in inverno, dove l'appassionato è la stagione che ama di più, sa se può nevicare o sarà semplicemente pioggia, non solo valutando la temperatura esterna ma anche l'umidità, che è un fattore che influisce sulla neve. No, senta, mi piace Bordone, questa cosa che l'appassionato ama l'inverno, giustamente, perché se d'estate c'è il sole ci si annoia. Esatto. È un po' banale. L'estate meteorologicamente è molto più noiosa. A parte le ultime estati che sono un po' imprevedibili. Sì. Comunque, anche se non siamo ancora in estate, siamo ancora in primavera, quindi la primavera effettivamente è capricciosa. Sì, diciamo che l'estate meteo in teoria comincia il 1 giugno, l'estate astronomica il 20-21. Quindi come condizioni meteo siamo già entrati in... Senta Bordon, bisogna essere in qualche modo esperti o queste stazioni meteo sono facili per tutti, anche per chi non è esperto? No, assolutamente. L'installazione è molto semplice. Basta fissare i 3 sensori al palo, anche se si abita in zone urbane, si trova sempre il compromesso per installarlo in terrazza o sul tetto. E poi la configurazione con questi apparati nuovi che abbiamo riusciamo a farla da remoto anche noi, quindi basta che l'utente collega l'apparato al router, noi riusciamo a configurarglielo da qui, quindi l'installazione è estremamente semplice. Ma che bella scoperta questo hobby, quasi quasi anch'io mi do alla stazione meteo, mi piace molto. Enrico, hai ancora qualche domanda? No, mi sembra molto semplice. Al massimo potrei citare una... Prima abbiamo citato questo network, magari lo ridiciamo, Bordon, come si chiama questo network? È quello dove vengono inglobate le stazioni, è Meteo Network. Meteo Network. Esatto, c'è una rete mondiale, ad esempio, che è Weather Underground, scritto il sito è denominato Wunderground. Sì. No, potrei citare NetAtmo, che è una società che... produce videocamere e si è tra i vari prodotti c'è una stazione meteo e molti utenti condividono i dati di queste stazioni meteo e devo dire che essendo un'azienda che vende in tutto il mondo ha una rete mondiale e quindi si possono vedere, ammesso che servano a qualcosa, perché non so perché uno debba andare a vedere la temperatura che c'è in questo momento magari a Tokyo, però se uno è appassionato in diretta si vede. Curiosità. Sì. E non sono dati che vengono dalle grandi istituzioni, ma sono dati di un cittadino che li ha messi in internet e sono magari quelli del balcone di casa sua. Quindi esatto. Crowdsourcing puro. Bello, esatto. Bellissimo. Grazie a Daniele Bordon, LD Shop, così abbiamo segnalato anche il sito per tutti quelli che volessero intanto scoprire questa realtà. Enrico, noi ci risentiamo tra poco invece, una breve pausa. Grazie ancora a Bordon, a tra poco. Il sabato del villaggio. Mi sento già un po' generale Edmondo Bernacca o generale Andrea Baroni, così, i meteorologi di un tempo. Però che era un colonnello tempo. Bernacca. No, eh? No, e dopo è diventato generale, ragazzi, dopo è diventato generale. Era colonnello quando faceva, poi è diventato Però è famoso generale. Per essere il colonnello sì, Bernacca. Sì, il soprannome era colonnello Bernacca, però... erano colonnello Bernacca e il colonnello Baroni, però insomma alla fine un po' di carriera l'hanno fatta anche loro. Sì, ero più affezionata a Bernacca. Tu eri più, Tuzzi Bernacca, Baroni. Il nome è più bello, no? Edmondo Bernacca. Tradisce un po' la nostra età, perché però conoscere Edmondo Bernacca... Ma io l'ho letto sui libri di storia. Sì. L'hai visto a te dopo? Sì, va bene. Sì. Enrico, abbiamo ancora qualche minuto per parlare sempre di meteo? Sì, volevo consigliare un'app, però ce ne sono tantissime legate a tutti i servizi che ci sono in rete. Allora, secondo me quella che è più anche più bella, perché vediamo se ce l'ho, perché io ne ho un po', No, ma sarò banale, Yahoo Meteo. Ah, ok. È molto molto popolare, molto amito, anche un sacco di premi. Secondo me è una buona idea, perché sapete che Yahoo appartiene al network di Yahoo Flickr, che è questa banca dati dove vengono raccolte le fotografie. Allora, l'applicazione Yahoo Meteo, oltre a fare delle previsioni che secondo me sono abbastanza affidabili, almeno quelle per il giorno dopo, per le prossime ore, raccoglie per ogni città e ti geolocalizza le fotografie relative a quel luogo carino. Di Flickr. Quindi è una bella idea, quindi se uno arriva in una città che non conosce, l'applicazione lo geolocalizza, ti dà le previsioni, ma nello sfondo ci sono le fotografie e uno facendo... l'aggiornamento, cioè aggiornando l'applicazione anche ogni 10 secondi, se uno vuole, vede alcune fotografie. Allora, ci sono anche delle fotografie di cieli, che quindi sono uguali un po' dappertutto, però ci sono anche i monumenti, quindi uno magari, se non è esperto di quella città, vede anche due o tre monumenti nello stesso momento in cui guarda le previsioni del tempo, che mi sembra una buona idea. Io invece di solito guardo AccuWeather, scritto AccuWeather, sì, perché mi dice se è una giornata giusta per lanciare l'aquilone, guardare le stelle, tagliare l'erba, così sono un po' più poetica. È molto americano. Sì, sì, sì, sì. Oggi ad esempio mi dice che è eccellente per il barbecue, ma pessima, certo, per fare una passeggiata col cane, non lo so. E però, pessima anche per guardare le stelle stasera. Io non ho né il barbecue né il cane, quindi AccuWeather non mi interessa. Allora, non hai né il barbecue né il cane, ma hai una fantastica trasmissione radiofonica che si intitola 2024. Senti che lancio, senti, bravissima, come te lo porta. Ci dai gli appuntamenti per 2024, perché poi mi sgridi. Beh, se allora, io sto guardando una cosa in televisione il venerdì sera, lui, sì, mi scrive su Twitter, certo, non stai ascoltando 2024, dillo, però, dillo. Però devo dire che abbiamo insomma fatto un podcast fantastico, perché il podcast contiene più contenuti della trasmissione, quindi vedi, facciamo venire un po' di acquolini in gola. Quindi venerdì sera in diretta, poi il podcast, sì, ricco di contenuti, e poi anche la domenica. 13:30, vi aspettiamo domani. Tutti gli appuntamenti. Enrico, chissà com'è il tempo questa sera, se vale la pena andare a vedere le stelle o andare al cinema. Quindi, siccome secondo me in un sacco di posti non ci sarà bel tempo, allora resta con noi, ascolta, perché è il momento di dare tutti i nostri consigli invece per il fine settimana al cinema. Ciao Enrico! Per anni il nostro mondo è stato in pace, ma ora c'è qualcosa. Lo sento. Forze oscure aleggiano su di noi. Ritirate! Trovate queste bestie, ovunque esse siano. Perché sei qui? Per salvare il mio popolo. E questo è un film che era piuttosto atteso dai fan del genere, Warcraft. Chissà se vale la pena andarlo a vedere, è uno dei film che escono in sala questo fine settimana. Appunto, tempo un po' incerto, magari nelle zone in cui sta piovendo qualcuno ha proprio voglia di cinema, allora abbiamo bisogno di un consiglio o di uno sconsiglio, chissà, dal nostro Franco D'Assisti. Ciao Franco! Ciao Marta, ciao a tutti i tuoi ascoltatori, consiglio assolutamente, nel senso che questo Warcraft è proprio una bella sorpresa. Intanto, come molti di voi sapranno, il film prende le mosse da un videogioco che è diffusissimo, ha veramente tanti anni di permanenza, quindi abbraccia più generazioni, ha milioni, davvero milioni di adepti in tutto il mondo. Ed è una dei rari casi di riduzione cinematografica di un videogioco che funziona bene, che funziona bene come film, bene come cinema. La storia è quella della eterna lotta fra il mondo degli orchi e quello degli umani, dove però chiaramente c'è il male e il bene anche fra gli orchi e fra gli umani. E quindi già questo fatto di essere un film che non si pone in maniera manichea bene contro male, ma cerca le venature del bene e del male, è una cosa che chiaramente ne alza il livello. Così come anche la regia, che è molto, molto interessante, la luce del film, la fotografia del film, la storia di un'invasione degli orchi attraverso un portale magico, c'è molta magia in questo film, dentro nella terra degli umani, gli orchi si cibano della vita degli umani come essenza, un po' come facevano i dissennatori di Harry Potter, per intenderci. Gli umani devono provare a resistere, ma c'è chi dice no, sia tra gli orchi, cercando una via pacifica di convivenza, sia tra gli umani, cercando di fermare un grande mago che sembra essere impazzito e essere passato dall'altra parte. Insomma, un film che piacerà a tutti quelli che hanno amato le atmosfere del fantasy in generale, del Signore degli Anelli per intenderci, che stanno da quelle parti in quel mondo cinematografico, ma con della grande azione e anche della grande commozione in certi momenti. Un film che tra l'altro si chiude aprendo una pagina verso un nuovo domani e quindi verso una saga vera e propria che potrebbe diventare questo Warcraft, che ha tutte le carte in regola per diventare un nuovo classico del genere. Hai parlato di un'invasione, e un'invasione hanno fatto in Italia Russell Crowe e Ryan Gosling, che dopo un po' ci trovavamo dappertutto. Sono venuti in Italia per presentare The Nice Guys. Raccontami un po' del film, vale la pena andarlo a vedere? Ora mancava solo che venissero anche a casa mia a sì, presentarlo. Aprire il frigo e trovarli dentro, sì. Esatto, perché allora, però devo dire, è molto bello questo, perché insomma ho capito che i film vanno amati e anche accompagnati. E questo è un film, secondo me, da amare e da accompagnare, perché è un film che si pone l'obiettivo di fare una sorta di buddy movie, ambientandolo nella Los Angeles degli anni 70, marcia e corrotta, però con i ritmi e gli stilemi del cinema di oggi. E quindi è un'operazione molto, molto interessante, con due attori che fanno locandina da soli, inutile negarselo, insomma, quando tu metti insieme Russell Crowe e Ryan Gosling, ovviamente tutto sembra già funzionare. In questo caso i due sono due investigatori svitati, diciamo così. Uno è uno che di lavoro di fatto mena la gente, cioè è uno che viene mandato a punire, ma lo fa con senso etico molto alto, con una grande professionalità e anche comunicando al prossimo quello che sta per spaccargli, e quindi, come dire, è inappuntabile. L'altro ha il tesserino da detective, Ryan Gosling, ma è un po', veramente un poco di buono. Si mettono insieme sulle orme di un'attrice di film a luci rosse che è misteriosamente scomparsa. Si capisce che c'è dietro qualcuno che vuole ucciderla, e tutto diventa una sorta di rovistare dentro il marcio del mondo, appunto, del cinema americano industriale degli anni 70. Però tutto questo con continui colpi di scena, continue scivolate, anche con l'esagerazione un po' pomposa ed enfatica di automobili che volano dentro le case, di gente che cade dei burroni, insomma c'è tutto quello che strappa la risata, ma c'è anche la faccia un po' così di questi due personaggi che francamente porta a casa il film. A proposito di bei ragazzi, Ryan Gosling, Russell Crowe, che insomma perlomeno un tempo era veramente un bellissimo ragazzo, io invece sono molto appassionata di Hugh Jackman e so che anche lui è al cinema questo fine settimana. Assolutamente, ce n'è per tutti i gusti questo fine settimana. C'è anche Hugh Jackman dentro un film che si chiama Eddie the Eagle, e questo Eddie the Eagle è un personaggio realmente accaduto, una di quelle stramberie di cui lo sport riesce ogni tanto a fornirci, ovvero un saltatore con gli sci britannico, e che è una sorta di contraddizione in termini, se ci pensate. Diciamo che il Regno Unito con gli sport invernali. Esatto. Magari nevica, ma non per gli sport invernali. Ebbene, questo saltatore olimpico di Calgary ebbe l'onore di rappresentare la Gran Bretagna, la Union Jack, in quel contesto. La storia ricorda molto, se vi ricordate, quella di 4 sotto 0, no? Dei quattro bobbisti giamaicani, anche quella era abbastanza una contraddizione in termini. E però ci dice come ancora una volta, ed è sta succedendo spesso negli ultimi tempi, lo sport sia ridiventato, sia forse finalmente diventato, perché non c'era riuscito molto in precedenza, uno strumento formidabile per il cinema per veicolare emozioni e soprattutto valori. Qui il valore è quello di non arrendersi mai, di non arrendersi al contesto, alle circostanze esterne, quando tutto ti sembra remare contro, ma invece di avere un sogno e di coltivarlo. Potremmo chiamarlo The British Dream, in qualche modo, quello di Eddie the Eagle, che voleva fare l'aquila, voleva volare, ce l'ha fatta nelle Olimpiadi, magari non le ha vinte, però come si diceva un tempo, l'importante è partecipare. Grazie Franco, l'appuntamento con te dopo il giornale radio delle 18, La Rosa Purpurea come sempre. Ci sentiremo La Rosa Purpurea, parleremo anche di un grande spettacolo tratto da Hitchcock al Ravenna Festival, tratto dal primo film sonoro e anche dall'ultimo film muto di Hitchcock, che era Black Mail, quindi restate con noi. Grazie Franco, ciao, alla prossima settimana. Ciao, donne, è arrivato Melog del tardo mattino. Melog accomoda pregiudizi, pensieri scontati e luoghi comuni. Abbiamo tutti i pezzi di ricambio per sguardi non convenzionali. Se il vostro cervello fa fumo, noi lo ripariamo. Affiliamo senso critico, fratelli coltelli, parenti serpenti, opinioni saccenti. Insomma, ascoltate il Melog di mezzogiorno. A metà giornata si rivolta alla frittata. Gianluca Nicoletti vi aspetta con Melog da lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Personalissima e Amissima, la nuova compagnia assicurativa con quasi 100 anni di storia. Sono Giovanni Minoli e vi aspetto tutti i giorni dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 10 e mezza con l'attualità su Mix 24 e Gialli della Storia, naturalmente su Radio 24. Ascoltaci anche in digital radio. Il sabato del villaggio. E rieccoci insieme dopo il giornale radio delle 16 con la seconda ora del sabato del villaggio, il sabato pomeriggio di Radio 24, qui il villaggio globale. Questa è la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri. E nella terza ora, sempre in diretta dalle 17 alle 18, il nostro consueto appuntamento con RadioTube insieme a Daniele Bellasio per tutta l'attualità del rete e dalla rete. I numeri per raggiungerci, gli SMS e i WhatsApp, potete mandarceli al 349-238-6666, 349-238-6666, ma io ho davanti a me anche il mio tablet con il mio account di Twitter, che è @MartaCagnola, e c'è anche l'hashtag cancelletto ISDV come le iniziali di Il Sabato del Villaggio. Allora, i temi della seconda ora sempre come filo conduttore aspettando il sole. Mi stanno arrivando anche le immagini di chi è al sole e di chi è alla pioggia in questo bel ponte, insomma era anche una bella occasione per fare un ponte con un po' di temporali. Allora, lo shopping online, comprare ma anche vendere in rete quando stiamo in casa per la pioggia, appunto nello spazio di Maria Luisa Pezzali. Ovviamente consigli letterari per tutti da Alessandra Tedesco. Poi manteniamo una promessa. Ricordate quando parlammo di visori per la realtà virtuale? Avevamo chiesto a Emilio Cozzi di provarli per noi appena gli fossero arrivati in Italia e di raccontarci tutto. Ecco, lo faremo proprio in questa puntata, quindi rimanete con noi. Ma partiamo subito con una novità che riguarda anche noi di Radio 24. Cominciamo? Cominciamo. Buongiorno. Ciao. Ecco. C'era un altro lavoro, io faccio l'ambulante. No, ma lui è un tuttologo, quindi... Ma tuttologo tua sorella? Sì, mi sento molto donna, in effetti. Torna il talent che ti insegna a fare la radio. Che fai? Lo stupido. Facevo radio su Radio DJ. Per me può bastare. Una radio che a me piace molto è RDS. Perché lo dico? Perché lo posso dire? Perché insieme ad RDS c'è questa iniziativa che coinvolge Radio 24. Dopo il successo delle prime due stagioni, torna RDS Academy. Io sono molto contenta perché ho visto anche qualche provino, poi glielo confesserò, di avere in collegamento insieme a noi al Sabato del Villaggio Anna Pettinelli. Buongiorno Anna! Buon pomeriggio a questo punto. Buon no? pomeriggio, sì, ormai sai che siamo qua a quest'ora così che è un po', a volte tra dico buonasera, sì, dipende dalle stagioni. Com'è stata questa esperienza? Sì, noi torniamo a vederlo il 9 giugno, ma come sappiamo avete già lavorato a lungo per questa RDS Academy. Abbiamo lavorato a lungo, abbiamo selezionato migliaia di provini, non mi chiedere quanti sono perché non le so, per arrivare al numero degli 8 concorrenti che da giovedì prossimo vedrete su Sky 1 a partire dalle 23. Però io dico sempre che esiste l'on demand e quindi ve lo vedete in qualsiasi momento della giornata vi piaccia. Ah guarda, io ho proprio una vita on demand, tra più uno e on demand ho il mio palinsesto personale. Migliaia di provini, io ho assistito a qualche provino, così, no, non di nascosto, mi sono intrufolata quando siete venuti proprio qui a Radio 24 a provinare un po' di ragazzi. Li ho trovati tutti molto bravi e soprattutto voglio sapere intanto da te se hai percepito che è ancora un sogno fare la radio. Ah, questo sicuramente. È sicuramente un sogno fare la radio, un sogno difficile da realizzare perché non puoi andare a bussare i grandi network perché non ti aprirebbero mai e le radio piccole nelle quali fare palestra e crescere in qualche maniera e formarsi sono praticamente scomparse, quindi io che voglio fare radio che faccio? Provo a fare la RDS Academy, questa è la realtà di oggi. Perché secondo te ancora voler fare la radio invece di avere solo il sogno della TV? Perché in tanti dicono no, io voglio fare televisione. Ma quella radio è un mezzo che è sopravvissuto alle tempeste dei social, all'innovazione tecnologica e la radio è sopravvissuta a tutto perché la radio è in continuo aggiornamento e quindi i social che come YouTube o altre cose che dovevano affossare la radio in realtà sono diventate armi attraverso le quali ci facciamo ancora più largo, quindi ecco perché la radio resiste. Però adesso voglio darti un'anticipazione dei provini che hai visto lì, che abbiamo girato a Milano presso la vostra sede. Mi pare che non ne abbiamo preso uno. No, non dirmi così, perché ce n'erano un po' che invece sì, allora alcuni ci avevano provato solo per divertimento, ma alcuni già lavoravano in radio via web, in piccole realtà, però d'altronde... Non ne abbiamo preso neanche uno, guarda, ti do questa anticipazione ferale, ma è così. Vabbè, ma io sono comunque pronta ad appassionarmi ai pochissimi alla fine che avete scelto. Quali sono le caratteristiche che tu in particolare hai cercato in questi ragazzi? Che siano svegli, intelligenti, curiosi del mondo, che sappiano avere il dono della sintesi, ma al tempo stesso riuscire a fabularti con le parole. Un po' di cose, parecchie cose devo dire, fare la radio non è semplicissimo. Insieme a te Matteo Maffucci, frontman appunto di Zero Assoluto, lo conosciamo bene, ma anche Giuseppe Cruciani. Com'è stato Giuseppe? Una peste, come al solito. Beh, coerente allora, coerente con se stesso. Coerente, sì, ma voi conoscete un Giuseppe che io non conosco, secondo me. Voi conoscete il Giuseppe aggressivo, quello della parolaccia, quello dell'argomento scomodo. Giuseppe ha il cuore di burro e, come tutti gli uomini che appaiono molto sfrontati, in realtà poi nascondono diverse insicurezze. È vero, vero. Allora, Giuditta e Melania, sì, sono diventate delle voci vere, le ragazze che hanno già Hanno vinto l'RDS Academy e quindi il loro contratto di lavoro era assicurato. Ma la cosa più bella è che sono state riconfermate, la prima per il secondo anno consecutivo, la prima per il primo anno consecutivo. Quindi entrambe hanno portato a casa ampiamente la riconferma. Quindi vale la pena guardare RDS Academy, perché vuol dire che scegliete molto bene, sono molto molto contenta. Noi facciamo del nostro meglio, più che scegliere, per insegnare loro un mestiere, e come è successo con gli altri concorrenti, tutti hanno poi trovato occupazione in altre realtà radiofoniche, e questo per noi è proprio un motivo di grande orgoglio. Sono molto contenta. Allora, giovedì alle 23, tutti i giovedì, ma poi l'on demand appunto, allora che volete, dal 9 giugno RDS Academy, ci siamo anche noi di Radio 24 e sono certo molto molto molto contenta di aver parlato con Anna Pettinelli, grandissima. Grazie, Marta, voce. Buon tutto agli ascoltatori, buon weekend, e ci vediamo giovedì sera, bacioni. E ci sentiamo sulle nostre frequenze, ciao. Ciao. Smau Research to Business ti aspetta a Bologna Fiere il 9-10 giugno, www.smau.it. Vi presento il sabato del villaggio. Aspettando un po' di sole in questo weekend in cui il tempo è un po' incerto, chissà da voi com'è il tempo questo fine settimana, un fine settimana lungo per tanti hanno fatto il ponte, tanti volevano godersi delle giornate all'aria aperta. Siccome non sempre è possibile, noi abbiamo i consigli anche per godersi la vita con ogni condizione atmosferica. Ad esempio, perché non leggere un bel libro col sole, con la pioggia, col temporale? Un bel libro va bene sempre. Cosa leggiamo? Beh, è il momento dei consigli della nostra Alessandra Tedesco. Ciao Alessandra. Ciao Marta, sai che ti dico una cosa? Per sì, me il sole e il caldo sono sopravvalutati. Io amo, è vero? Amo il tempo piovoso, un po' grigio, fresco, copertina, tè caldo, libro, film, serie TV, quello che vuoi, insomma. Quindi proprio sono controcorrente da questo punto di vista, perché a me piace il fresco, sono una meridionale anomala da questo punto di vista. Allora, dacci un po' di consigli. Allora consigli, se dobbiamo spot leggere in questi giorni o se dobbiamo mettere qualcosa da parte per il nostro umore. Allora, io ho diviso un po' di categorie, insomma. qui in questi giorni ha voglia di puro relax, quindi di una storia, insomma, confortevole anche, io vi consiglio l'ultimo romanzo di Andrea Vitali, Le mele di Kafka. Qual è la caratteristica di questo romanzo, oltre al fatto che, insomma, se ne sta parlando molto, lui è sempre molto successo, arriva subito in classifica? Per la prima volta, uh-huh, lo sai che è uscito dai confini di Bellano? No, ma come? Dove è andato? È espatriato? Sai che sono le mie zone? Sì, perché? Perché allora, Vitali, si sa, ambienta tutti i suoi romanzi nel passato e a Bellano, che è questo piccolo paese dove lui vive, sul lago di Como. Stavolta ha deciso di sbarcare i confini, ma anche della nazione, e di ambientare solo una parte, mica tutta, perché sennò una parte della storia in Svizzera, a Lucerna. L'idea gli è venuta proprio durante una sua vacanza personale a Lucerna. Insomma, brevemente la storia: siamo negli anni 60, c'è naturalmente un personaggio di Bellano, Abramo, che è un giocatore di bocce, lui fa spesso dei tornei anche fuori paese, ecco, diciamo così. E però c'è un problema, perché il cognato, che appunto vive in Svizzera a Lucerna, sta per morire, e quindi lui si sposta con la moglie a Lucerna e non capisce quando riesce a tornare a Bellano per disputare o meno questo torneo di bocce. Sì. Tutta questa storia di Lucerna gli è venuta in mente a Vitali venendo a conoscenza di un aneddoto, che sono appunto le mele di Kafka. Allora, si racconta, si narra, adesso non so se sia leggenda oppure qualcosa di vero. Vogliamo crederci che intorno al 1910 Mr. Kafka, chiamiamolo così, insomma quello delle metamorfosi per intenderci, soggiornava a Lucerna per 3 settimane in un albergo, e alla fine litigò curiosamente con il direttore di quest'albergo, perché secondo lui la frutta che veniva servita era scadente. Da quel giorno in quell'albergo a Lucerna, nella hall viene sempre tenuto un vassoio di frutta meravigliosa, proprio in ricordo di Kafka. Della lite con Kafka. Della lite con Kafka. Allora, quando ho incontrato Vitali, ovviamente io lo prendo sempre in giro sul fatto che ambienta tutte le storie a Bellano, tutte negli anni 20, 30, 40, 50, e si è spinto fino agli anni 70, insomma, ma non credo sia andato oltre. Allora, insomma, si è sentito un po' un pesce fuor d'acqua a varcare i confini di Bellano e ad arrivare addirittura in Svizzera? Sentiamolo. Devo dire che la rivelazione dell'aneddoto mi ha fatto sentire in obbligo a centrare parte, una piccola parte della storia a Lucerna. Non potevo fare diversamente. E la soluzione, giusto, quello che tu hai posto è una domanda interessante, perché c'era la soluzione del luogo. Io amo scrivere in un luogo che conosco, è piccolo, però perlomeno lo conosco abbastanza bene. Quindi l'abbiamo risolta utilizzando prevalentemente, allora, quei punti di riferimento cardinali per ciascuno di noi: un campanile, una chiesa, una grossa via, quei punti di riferimento che uno assume per non perdersi, e io poi riesco a perdermi comunque. O se no, i profumi, gli odori. Ho sostituito con queste cose quelli che sono i riferimenti che necessariamente non conoscevo, perché non sono lucernese e non posso. Anche la stessa lingua, perché a Lucerna parlano molto tedesco, assolutamente. Ecco, l'abbiamo risolta col suono. Cioè, quindi le poche frasi riportate non sono in tedesco, sono quello che il Ferrascini sente come suono, quindi è una frase che non ha senso letteralmente, è il suono di questa voce gutturale e un po', diciamo, imperativa, che lo richiama a non toccare le mele di Kafka, cosa che peraltro non è vera, perché nella realtà si possono mangiare. Io, per questione proprio di racconto, ho scritto una bugia, che cioè le mele erano lì solo in visione e non si potevano assolutamente toccare. A me già piace molto, a chi lo consigli? E appunto, dicevo, a chi ha voglia proprio di leggere qualcosa di confortevole, perché i romanzi di Andrea Vitali, anche quando c'è di mezzo il giallo, quando c'è di mezzo un mistero, eccetera, poi sono sempre confortanti e confortevoli, insomma ci si sente un po' come a casa propria. Molto bene, credo che lo leggerò, anche se ha tradito per qualche momento il lago Svizzera. Di Como. Ma sì, ma c'è molta vicinanza intima e culturale. Ancora consigli? Apriamo un altro sentimento, un'altra categoria di pensiero e di libri. Lacrimuccia? Dai, lacrimuccia, fa sempre bene. Lacrimuccia però col sorriso, posso dire, perché il romanzo che vi sto consigliando è veramente per chi ha voglia di commuoversi. È un libro commovente, ma nello stesso tempo diverso. divertente ed è diventato un caso editoriale nelle ultime settimane. Forse l'avrete sentito nominare o forse avrete visto dei video sul web perché ne stanno circolando parecchi. Si intitola Mio fratello rincorre i dinosauri. Ah, ho visto il video su YouTube. L'hai vista, sapevo che tu l'avresti sicuramente riconosciuto al volo. L'ha scritto Giacomo Mazzariol, pubblicato da Einaudi. Lo scrittore è giovanissimo, ha 19 anni e racconta la storia vera della sua famiglia, di quando lui a 5 anni aveva due sorelle e i genitori annunciano: sapete, avrete fra poco un fratellino, ma è un fratellino speciale. E allora lui si immaginava un supereroe, un fratellino che potesse volare o correre velocemente, insomma con i superpoteri. La specialità di questo fratellino è che è un bambino Down. Allora c'è tutto il racconto da parte di Giacomo di come ha vissuto lui la presenza di questo bambino Down. All'inizio anche un po' la vergogna, perché pensava che gli amici potessero prenderlo in giro per il fratellino Down. Poi si è reso conto invece che questo fratello, questo Giovanni, è innanzitutto veramente una gioia di vivere, è un simpaticone, è una persona molto divertente ed è diventato il suo migliore amico. Però la cosa bella di questo romanzo è che viene appunto raccontata dal punto di vista del fratello di un bambino Down e non fa sconti, perché analizza se stesso. È un romanzo di formazione dalla parte di Giacomo, e che non ha paura a guardarsi dentro e dire: ci sono stati momenti in cui ho avuto paura di vergognarmi di mio fratello, poi l'ho superata, poi adesso ne vado orgoglioso, eccetera eccetera. Però non ha paura appunto ad analizzare anche questi sentimenti poco politically correct, diciamo così. È un libro commovente e divertente nello stesso tempo. Lo consigliamo anche ai ragazzi? Assolutamente. L'autore ha 19 anni. L'autore sì. 19 anni, quindi io direi che si può leggere assolutamente dai 14-15 anni in su. Mio fratello rincorre i dinosauri, il titolo è anche molto simpatico. La scorsa settimana ci avevi fatto una promessa, in realtà l'avevo fatta io la promessa, perché avevi pronto un romanzo, io ho detto non abbiamo il tempo, va bene, parliamo la prossima settimana. Eccolo qua, il libro alla radio, vedi che si sente? Si sente, si sente. Alessia Gazzola, Non è la fine del mondo, pubblicato da Feltrinelli. Alessia Gazzola era diventata famosa per aver creato il personaggio seriale di Alice Allevi, anatomopatologa, dalla vita sentimentale un po' disastrata, la Bridget Jones, diciamo. Adesso ha abbandonato un attimo il suo personaggio seriale e ci propone un altro personaggio delizioso, Emma, come lei stessa la definisce, la tenace stegista. Ah, mi piace già. È un po', diciamo, simile ad Alice, perché è una ragazza simpatica, sognatrice, però a differenza di Alice non sogna il principe azzurro. Lei sostanzialmente non gliene frega niente dell'amore, o comunque pensa che l'amore non serva a completare se stessa. Lei vuole riconoscere la sua identità attraverso il lavoro, quindi finisce prima un contratto, poi passa ad un altro contratto, insomma le sue disavventure lavorative vissute veramente con tenacia. La tenacia stegista, secondo me, è la definizione perfetta per Non è la fine del mondo di Alessia Gazzola. Allora, abbiamo ancora tempo per un paio di brevi consigli. Ancora cosa ci puoi consigliare? Magari, non so, qualche thriller, perché anche quelli sono molto amati questa stagione. Allora, se volete animare, come dire, le giornate di pioggia con il brivido della paura, c'è il nuovo libro di Jeffrey Deaver, l'americano dal thriller di ghiaccio, direi così. Il bacio d'acciaio, pubblicato in Italia da Rizzoli. Lui era quello che ha scritto Il collezionista di ossa. Questo romanzo fa parte della serie di un personaggio seriale, Lincoln Rhyme, che è questo, diciamo, criminologo di fama mondiale che però ormai lavora da una stanza con vista su Central Park praticamente ha avuto un incidente ed è diventato tetraplegico. Le sue gambe, diciamo, le sue braccia e i suoi occhi sono l'agente Amelia Sachs. In questo caso dovranno indagare su, ovviamente, un serial killer che utilizza molto la tecnologia. Ma bisogna leggere tutti gli altri romanzi per capirlo? No, perché si capisce benissimo, si capiscono i personaggi, non c'è bisogno di aver letto tutta la serie, sono romanzi a sé. Perfetto. Bacio d'acciaio. Ultimo consiglio, lo facciamo spesso per i bimbi, perché magari vanno distratti in questi giorni. In questo giorno, se siete costretti a casa dal maltempo e dalla pioggia e avete bambini dai 9 anni in su, vi consiglio questi due nuovi volumi di Mondadori. Fammi scritti mettere gli occhiali che non da li vedo Guido da... Sgardoli, guarda che carini. È una nuova saga che si chiama I gemelli Robinson. Sono usciti i primi due volumi, L'isola dei misteri e Caccia al tesoro. Questi due gemelli Robin sono gemelli diversi, innanzitutto eterozigoti, si perdono su un'isola deserta e naturalmente devono tentare di sopravvivere in tutti i modi. C'è naturalmente il riferimento letterario a Robinson Crusoe, però a parte questo, insomma, sono storie originali, sono storie divertenti, ci sono dei disegni, le si segue con piacere, quindi i bambini li possono leggere con i genitori o anche da soli. Età? Dai 9 anni in su, i gemelli Robinson, l'isola dei misteri, la caccia al tesoro. Dai 9 anni in su, quindi vanno bene anche per me. Mentre il thriller di prima, non lo so, forse non no, tanto. No, fa paura, Jeffrey Deaver, ecco. Quelli che veramente allora io... fa paura. Anche la sua faccia, non so se ce l'hai presente. Sì. È veramente una faccia da paura. Io vado direttamente sui gemelli Robinson, allora. Alessandra, ultimo consiglio, quello del cacciatore di libri. E vabbè, se vi siete incuriositi su Alessia Gazzola e Non è la fine del mondo, stasera alle 22 sentirete l'intervista integrale ad Alessia Gazzola e come sempre poi la ritroverete su podcast. Grazie Alessandra, a presto, baci. Il tema di questa puntata è Aspettando il sole e come potevo resistere alla tentazione dei Doors, che io amo in maniera viscerale fin da quando ero ragazzina. Waiting for the Sun, che tra l'altro è anche il titolo di un album, ma Waiting for the Sun, la canzone, non era nell'album Waiting for the Sun, l'album è di 2 anni prima, la canzone è stata pubblicata in un LP successivo che era Morrison Hotel. Secondo me anche questi sono perfetti per questi giorni così un po' tra sole, temporale, così mi sembrava molto intonata all'aria, all'atmosfera, al di là del titolo. Ma tra poco ancora Aspettando il sole, ne parleremo per quanto riguarda i consumi, perché con Maria Luisa Pezzali cercheremo di capire cosa si può fare quando piove e non si ha voglia di uscire. Anche Maria Luisa Pezzali ha i suoi consigli. E poi, prima di chiudere questo appuntamento con il sabato del villaggio e poi passare alla terza ora della diretta con RadioTube, dobbiamo mantenere una promessa. Ve l'avevo detto, avevamo chiesto a Emilio Cozzi di provare per noi i visori per la realtà virtuale che dovevano arrivare in Italia. Sono arrivati, gli sono arrivati, quindi li ha provati e ci racconterà tutto. Vale la pena? Cosa si può vedere? Che esperienze si possono vivere? Emilio Cozzi ce lo racconterà più tardi. Noi adesso facciamo una brevissima pausa, poi staremo ancora insieme col Sabato del Villaggio. Il Sabato del Villaggio. Ho messo l'aria condizionata un po' fredda, un po' influenzata dal fatto che fossero arrivati i primi raggi di sole, li vedo dai vetri e dalle finestre. Ho messo l'aria condizionata un po' fredda, spero di non perdere la voce perché saremo in diretta fino alle 18 con il nostro RadioTube. Anzi, magari vi anticipo anche un po' i temi di cui parleremo in RadioTube, perché lo avete sentito nei giornali radio, ovviamente in rete se ne parla tantissimo, la scomparsa di Mohamed Ali. Qualcosa diremo anche nel nostro RadioTube, visto che parliamo sempre della realtà per come viene raccontata dalla rete e oggi la rete è unanime nel raccontare Muhammad Ali. Ma parleremo anche non del calciomercato ma del TV mercato, perché sono i giorni in cui si decide la prossima stagione televisiva. La rete anche lì è piena di gossip su dove andranno i conduttori, quali trasmissioni. Avremo un esperto che soprattutto conosce tutti dietro le scene e ci li racconterà tutti. Televisione in questi giorni, il grandissimo successo di Edicola Fiore, non possiamo non parlarne. Io sono molto contenta perché avremo un ospite che a me piace tanto, tanto, piace veramente tanto. Lo scopriremo dopo in RadioTube e parleremo anche di jazz. Tutto questo però dopo il giornale radio delle 17, perché abbiamo ancora mezz'ora con il Sabato del Villaggio, mezz'ora sempre con il nostro tema conduttore che è Aspettando il sole. La tele resta spenta e non la guardo più. Ho un nodo in gola che è difficile mandare giù. Fumo un po', sposto via la tenda. Cielo grigio piombo, io non la lascio che mi prenda la nostalgia che sale lentamente come mai. Io penso a te, mi chiedo adesso dove sei, cosa fai, chissà se tu avrai mai pensato a me, al nostro fuoco che bruciava mo' e cenere. Ma tutto passa piano, eppure se fa strano io sorrido perché so che oggi non ti chiamerò. Quel che viene venga mi sta bene, quel che è stato è già passato, e mo' il passato se lo tiene, piove già da un tot. La pioggia bagna la mia pelle ma mi asciugherò, perché so che il tempo è ciclico e so che un po' di tempo è quello che ci vuole, mentre un guaglione sta scacciando il male, sta aspettando il sole. Oggi non c'è sole intorno a me, parlami, risplendi e scaldami, voglio sole, cerco un'ora luce nella confusione, un guaglione. E oggi è come dire. Aspettando l'estate, vien voglia di shopping o perlomeno vien voglia di rinnovare l'armadio o anche solo di fare il cambio dell'armadio. Lo hai già fatto, Maria Luisa? Ciao Maria Luisa Pezzali. Ciao Marta, un saluto a tutti. No, volevo chiederti anch'io la stessa cosa. Io sono disperata perché non l'ho ancora fatto. Ma io quasi quasi, sai che quasi non lo faccio più, nel senso che io ho due armadi e diciamo che mano a mano porto in un armadio che apro più spesso le cose più leggere, ma non è più come un tempo che c'era proprio il vero cambio degli armadi. Sì, forse solo per i maglioni di lana, però sono un po' meno rigorosa in questo. Ma insomma io un po' di cose ce le ho da spostare, quindi sono terrorizzata, infatti ho rimandato fino adesso, continuerò a rimandare. Perché parliamo di questo? Perché grazie alla second hand economy, al boom del mercato dell'usato di cui Marta abbiamo parlato altre volte, anche le pulizie di primavera e il cambio dell'armadio diventano un'occasione non solo per liberarci di quello che non usiamo più, ma per ricavare anche qualche soldino. E quindi ci fa anche venire voglia di farlo? Esatto. Allora dimmi qualcosa che mi possa motivare a prendere questa decisione. Beh, eBay è andata a guardare i propri numeri del periodo, ci ha fatto anche i conti in tasca e ha scoperto che il 45% degli italiani almeno una volta all'anno si dà alle pulizie generali di casa per liberarsi di quello che non usa più, e oltre un terzo lo fa proprio in questo periodo. Oltre 8 milioni e mezzo vendono online quello di cui si vogliono liberare, e allora ci facciamo raccontare tutti questi dati da Irina Pavlova, che è la responsabile comunicazione di eBay Italia. Ciao Irina. Ciao, ciao a tutti. Grazie. Buongiorno Irina. Buongiorno, ascoltando voi anche a me in realtà è venuta la voglia di fare il cambio. Ecco, motiviamoci tutte a vicenda. Beh, assolutamente sì. Innanzitutto Irina, un dato che mi ha incuriosito più di altri: i rassettatori seriali, così voi li avete definiti, stagionali, sono uomini e per lo più giovani. È verissimo, anche questo mi ha sorpreso, probabilmente perché questi rassettatori seriali, stiamo parlando di coloro che utilizzano internet per vendere gli oggetti che non utilizzano più, e quindi gli uomini probabilmente sono più propensi. Uno può pensare a una mamma magari con i figli che ha tempo per mettere in vendita gli oggetti online. Invece no, sono gli uomini, principalmente giovani, provenienti dal sud, che vendono gli oggetti non utilizzati. Questa è una prima sorpresa anche per me. Magari gli uomini si affezionano meno. Io prima di abbandonare un capo d'abbigliamento dico: ma no, ma magari lo metto ancora una volta. Non è mai vero. Beh, però le donne devono anche fare più spazio per comprare il nuovo. E anche questo è vero. E anche questo è vero. Voi ci avete fatto anche i conti in tasca, Irina. Il guadagno medio? Il guadagno medio, 138 euro per gli italiani, questo è un po' un guadagno medio del 2015 dalla vendita online degli oggetti non più utilizzati, secondo questa ricerca. Rispetto al resto d'Europa, perché la vostra non è una ricerca solo italiana. Sì, rispetto al resto d'Europa devo dire che siamo un pochino pressoché alla fine della classifica. Al primo posto sono gli austriaci, sembrano di essere molto più propensi alla vendita online e al guadagno, guadagnano ben 174 euro, vengono seguiti dagli spagnoli e noi più o meno siamo a pari con i francesi guadagnano 136, noi 138 euro, un pochino di più, 2 euro in più. Che cosa vendiamo di più in rete? Allora, in rete vendiamo principalmente i libri, ovviamente, al secondo posto abbigliamento, accessori e gli smartphone. Però se guardiamo la differenza tra un uomo e donna, scopriamo le differenze. Tolti i libri, che rimangono più o meno al secondo posto per entrambi i sessi, vediamo che gli uomini sono più propensi a vendere gli smartphone e videogames rispetto alle donne, che vendono l'abbigliamento, i capi di abbigliamento e le scarpe, proprio per liberare gli armadi e trovare lo spazio per comprare probabilmente qualcos'altro. Beh, insomma, Marta, tu come ti collochi in questa classifica? Io sono una classifica? Acquirente di libri, ne compro molti, devo dire che sì, soprattutto usati, sarà un'abitudine che io fin dai tempi del liceo, se li trovo usati, anzi mi piacciono di più se sono un po' più vissuti. Beh, i numeri di eBay lo testimoniano, questo è un trend che aiuta anche l'economia circolare, questa grande macro tendenza nei consumi, insomma il riutilizzo, la rimessa in circolo del già utilizzato. Voi siete assolutamente allineati, Rina. Sì, è una famosa shared economy, come la chiamiamo adesso, quindi dare la seconda vita agli oggetti non utilizzati, perché no, guadagnando, ma soprattutto aiutando anche la sostenibilità che tutti in questo momento stiamo cercando. Devo dire che mi ha stupito, guardando i dati ai quali ho dato un'occhiatina, le regioni in cui si vende di più. Uno penserebbe Lombardia e Lazio, come al solito, invece no. È la Campania. È la Campania, sì, la Campania è praticamente la campionessa delle regioni della vendita online, seguita dalla Toscana e da Friuli Venezia Giulia. Così, un dato inatteso, e i campani sono esperti venditori. Bella, mi è molto divertito questa ricerca di eBay, grazie Irina per essere stata con noi. Grazie a voi, buon proseguimento. Ciao Irina. E buone vendite online, buon cambio dell'armadio, visto che ormai abbiamo preso la decisione. Maria Luisa, questo invece è il momento per andare a sentire quali sono le chicche, quali sono le scoperte di Cristina Lazzati. Dovremmo averla in collegamento. Ciao Cristina. Ciao Cri. Buon pomeriggio a tutti. Eccoci qui. Allora, preparatevi. Mm-hmm. Non è domani, non è nemmeno dopo domani, ma bensì dalle 18 dell'11 giugno alla mezzanotte del giorno successivo, si parte con la notte bianca dello shopping sul web, o meglio la crazywebshopping.it. Ci prepariamo non comprando nulla per una settimana. Sì, e poi posto nell'armadio, l'abbiamo fatto. Già fatto vendendo. Siamo pronte. Allora, perfetto. Cosa succede in questa crazy, eccetera, eccetera, eccetera? Allora, intanto ci sono tantissime categorie di prodotti, per cui andiamo dall'abbigliamento agli accessori, arredamento, auto, cosmetica e chi più ne ha più ne metta, dove ci sono una serie di negozi online che per queste ore, questo weekend, lasciano una serie di prodotti al 40%, molti di essi, altri scontati, non è detto che sia dal 40%, ma ce ne sono alcuni che vanno al 40% in su, per cui speriamo anche 50, 60, 70. Al momento, se volete andare a dare un'occhiata, andando proprio sul sito, che ripeto è crazywebshopping.it, dove crazy è con la Y. Crazywebshopping.it, okay. Marta, mi raccomando, perché so che tu ti connetti sempre. Ma ho il vizio di collegarmi non appena mi dici le cose, che così controllo subito in diretta. Mm-hmm. Ecco, e lì ci sono già i negozi che hanno aderito, non è detto che non se ne aggiungano degli altri, ma comunque ci sono già dei bei nomi, per cui abbiamo da Chiabi per Bonprix eccetera per l'abbigliamento, ma si passa anche per Ikea, per Decathlon, addirittura sul food and wine abbiamo anche Italy, più una serie, un paio di negozi di shopping di vini. Poi abbiamo Unieuro, il Libraccio, ProMod, insomma, anche per i bambini c'è mymelin.com. Mi auguro che si aggiungano altre cose per i bambini, perché per adesso lì l'ho visto un po' scarso, ma datevi da fare aziende, perché dovete andare su questo sito e metterci un po' a disposizione un po' di prodotti. Comunque lo sconto è del 40%, ci si collega, si va direttamente da quella pagina, ti mandano al negozio che ti interessa, ovviamente negozio online, e a quel punto ci saranno tutti i prodotti che sono in offerta. Fino a quel momento però quali saranno questi prodotti, ahimè, non è dato a sapersi. Però tutto sommato, visto il numero di negozi e visto il genere di cose, c'è anche Bottega Verde che è una new entry, tra l'altro volendo si possono scremare se non si vuole magari esagerare, dice vabbè voglio stare sul 40% in su, proprio andando sempre sul sito basta cliccare sconti del 40%, fanno sparire quelli che non ce l'hanno e rimangono quelli con lo scontone, quindi in qualche maniera se vogliamo, come dire, prevenire che la nostra carta di credito sia troppo dissanguata, possiamo anche fare quello. In alcuni casi ci sono anche delle chicche solo per questa notte, cioè alcuni di questi negozi mettono a disposizione le cose che normalmente non sono in vendita e non in quella forma, quindi anche questo potrebbe essere carino. Guardando, ci sono due o tre negozi dai quali mi servo regolarmente, non farò il nome, ma bisogna iscriversi in qualche modo o bisogna semplicemente ricordarsi che quella è la notte in cui fare shopping? No, bisogna proprio ricordarselo, per cui basta segnarselo sul calendario, non è necessario nessun tipo di iscrizione, lo organizza il consorzio Netcom, che è il consorzio che unisce tutti i sempre più numerosi negozi online, anche italiani, e quindi se eravamo abituati ai Black Friday e ai, non mi ricordo più, i Crazy Monday o qualcosa del genere, dello shopping fatto all'estero, bene, adesso si è aggiunta anche questa notte, non è il primo anno, siamo già al secondo anno e teniamo conto che per la prima volta l'anno scorso sono stati ben 700.000 gli accessi e c'erano ben 150 aziende partecipanti, in questo caso ce ne sono ancora di più e ovviamente il consorzio si augura che, come dire, gli italiani sviluppino una sempre maggiore familiarità con lo shopping online, e devo dire che in fondo, se la serata lo permette, in fondo anche starsene davanti al computer a spendere un po' di soldini potrebbe sempre essere un'attività ludica che a me personalmente non dispiace mai. Ho già cliccato su Save the Date e mi si è aperto il calendario del telefonino, ho messo già il promemoria, che così sabato prossimo squilla, che così non mi dimentico. Ottimo, anche perché tra l'altro se vi piacciono le notti bianche, basta che andiate, googolate, perché le notti bianche, non online ma a questo punto fisiche, si stanno diffondendo e quest'estate sarà piena di notti bianche, ma questo magari ne parliamo in un'altra puntata. Saranno lunghe notti, anche perché lo abbiamo detto la scorsa settimana, ci sono molti appuntamenti calcistici e quindi per chi non è appassionato di calcio si darà allo shopping. Bisogna, lo abbiamo già detto, diversivi. Grazie Cristina per essere stata con noi, al prossimo sabato, grazie, a presto Cristina Lazzati. Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti. Maria Luisa, invece l'appuntamento con te? Con Essere Avere, domani alle 22 come sempre. Ciao. Grazie a tutti. Il sabato del villaggio. U2 li abbiamo riconosciuti. Song for Someone è una canzone della quale hanno fatto svariati video, ne hanno fatto uno con Woody Harrelson, ne hanno fatto uno con loro che suonano, hanno fatto anche un video con la realtà virtuale, un video da guardare con un'esperienza, con uno di questi visori per la realtà virtuale. Noi ne abbiamo parlato con grande anticipo quando si cominciava ad aspettare il loro arrivo in commercio. Ne abbiamo parlato con un super esperto che ci aveva promesso: quando arrivano li provo e poi ci sentiamo in trasmissione e vi racconto cosa si può fare, che esperienza è, se vale la pena provare il brivido di provarli, possederli, usarli. Lui è un amico del Sabato del Villaggio, scrive su un sacco di testate e noi in particolare siamo molto orgogliosi che scriva per il Sole 24 Ore, in particolare per il domenicale del Sole 24 Ore. Il suo account di Twitter è @ addio e grazie per. Buongiorno Emilio Cozzi, ciao Emilio. Ciao Marta, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, raccontami un po', raccontaci cosa hai provato, che oggetti hai provato? Ho provato i due visori in questo momento considerati top di gamma, vale a dire HTC Vive e Oculus Rift, che poi è il visore da cui diciamo questa rivoluzione virtuale è partita ormai qualche anno fa, prima che l'acquistasse Facebook per 2 miliardi di dollari nel 2014 e prima appunto che uscissero, cosa che è successa proprio poche settimane fa, da quando appunto la mia, come dire, la mia giornata è cambiata aprendosi a un universo che fondamentalmente non esiste. E già la tua giornata è cambiata, che vuol dire che li hai utilizzati. Non ho smesso mai, diciamoci la verità. Accidenti. Non ho mai smesso di usarli. Un po' mi fa paura, Emilio, questa tua affermazione. Di questo se vuoi parliamo, ma è vero. In pratica, allora raccontiamo a chi non dovesse conoscere la cosa. La realtà virtuale è una realtà digitale sintetica che non esiste attorno a noi. Però infilando questi caschi, meglio queste maschere, sembrano delle maschere da sub, ebbene compare un universo sintetico attorno a noi che in qualche modo ci proietta in un altrove che non esiste, una sorta di quasi fosse un teletrasporto di Star Trek per i fan, quindi davvero come nei telefilm di fantascienza e come la fantascienza appunto preconizzò ormai tanti decenni fa, si può andare da un'altra parte pur stando fermi dove si è. Ma perdi la cognizione della realtà, soprattutto del tempo? Decisamente, tanto che non solo del tempo ma anche dello spazio. Le migliori applicazioni, ricordiamo che appunto questi visori arrivano dai videogiochi e chi li ha sviluppati sostanzialmente proviene da quel mondo, ebbene però le migliori applicazioni in questo momento sembrano suggerire il fatto che la realtà virtuale ci toccherà probabilmente in massa e fuori dai videogiochi. Allora la domanda banale è cosa ci fai? Per esempio consiglio a tutti di dare anche solo un'occhiata a un video di questo Tilt Brush, che è un'applicazione peraltro sviluppata da Google, attraverso la quale si può diventare pittori tridimensionali, cioè utilizzando questi due motion controller, questi due diciamo telecomandi, chiamiamoli così, che attraverso il visore vengono riconosciuti e quindi proiettano le mani, simulano le mani nell'alterità digitale, si può dipingere in tre dimensioni facendo qualsiasi cosa. Si ha una sorta di tavolozza attraverso la quale si possono cambiare i colori, ma non solo, il pennello, il tipo di pennello, il tipo di traccio di tratto che si fa, e si disegna nell'aria, si disegna peraltro con una qualità pazzesca. Ci sono già diverse mostre, tra virgolette, chiamiamole così, virtuali ovviamente, in cui artisti espongono le proprie creazioni in 3D, creazioni che non esistono, lo ricordo, se non in quella realtà. Quindi giochi, intrattenimento, ci sono anche cose utili, perché qualcuno so già che ci scriverà, è un bel modo per perdere tempo. Ci sono e come, le cose più interessanti, peraltro quest'anno il summit internazionale del virtuale si terrà proprio a Venezia, fra poche settimane, laddove appunto università come il MIT, come Harvard si incontreranno per parlare di realtà virtuale. Sono per esempio nel campo medico, nella finanza, nel turismo, pensate a come sia possibile studiare facendosi insegnare direttamente la fisica o la matematica da Einstein per esempio, in una virtualità che diventa anche interattiva. A un certo punto, pensate alla medicina, come sarà possibile operare a distanza oppure insegnare a distanza vedendo quello che si può fare. Tenete presente che la realtà virtuale non è altri, tanti osservatori infatti dicono che il vero futuro sarà nella realtà aumentata, vale a dire il tipo di realtà che somma l'alterità sintetica con quella che ci circonda, cioè non più un altrove ma delle informazioni audiovisive che si aggiungono a quello che vi circonda. Quindi a quel punto per esempio un grandissimo spot di HoloLens, che è la realtà aumentata secondo Microsoft, fa vedere come una casalinga in panne perché il suo lavabo perde, proietti un idraulico seduta stante che l'aiuta a riparare il lavabo stando peraltro a casa sua. Fantastico, questo è veramente pazzesco. Emilio, hai fatto due nomi, Oculus Rift e HTC o HTC Vive. Esatto. Quale, che caratteristiche hanno? Si equivalgono o sono diversi? Principalmente, concettualmente sono identici. La grossa differenza, al di là di 200 euro di prezzo, ecco, è bene dirlo, in questo momento il biglietto d'ingresso alla realtà virtuale costa molto, ecco, nel senso che oltre al costo dei visori, che si aggira tra i 700 euro per Oculus Rift e i 900 per Vive, adesso spiegheremo perché questa differenza, ebbene oltre a questo prezzo occorre sommare quello di PC all'altezza per farli girare come si deve, quindi parliamo di un biglietto che complessivamente si aggira intorno a 2000 euro, non esattamente una spesa alla portata di tutti. La differenza principale, perché a livello di prestazioni grafiche sono identici, diciamo, è che appunto Vive è fornito con questi motion controller, questi due telecomandi che permettono di riprodurre e di simulare le mani. Tra l'altro segnalo che ho appena retweetato un tuo tweet, si vedono proprio questi due telecomandini, esatto. Diciamo. È corretto, sono esattamente quelli forniti con Vive. Mm-hmm. Oculus non li ha al momento, li avrà entro fine anno, li ha già battezzati Oculus Touch e già li ha mostrati a diverse esposizioni e fiere internazionali, però in questo momento diciamo la realtà virtuale di Oculus è come dire monca, nel senso che non si può interagire simulando le mani, si può farlo attraverso un joypad normale di videogioco o attraverso un telecomando che viene fornito con il set. Per il resto sono concettualmente identiche. Che le due realtà virtuali delle due case più grosse. Un altro problema grosso che hanno e che in qualche modo suggerisce agli analisti il fatto che forse la realtà virtuale non diventerà immediatamente di dominio pubblico è la famosa VR sickness o motion sickness, cioè quella sensazione quasi di nausea. Mal di mare. Esattamente, una sorta di mal di mare della realtà virtuale che viene indotto dal fatto di stare fermi eppure facendo percepire al cervello di muoversi, perché voi banalmente potete correre in un corridoio o potete correre sfrecciare con un'auto di Formula 1 con le mie amatissime astronavi, in realtà stando fermi sulla vostra poltrona. Questo al cervello, come dire, non è molto gradito, però è una questione che già questi device hanno risolto e hanno, come dire, alleviato molto rispetto ai prototipi che ho avuto modo di provare. Mi affascina e mi spaventa allo stesso tempo. Hai detto astronavi perché noi l'abbiamo già detto nei nostri precedenti collegamenti, tu hai proprio tutto un tuo mondo di astronauta notturno che quindi adesso si è arricchito dalla realtà virtuale e non esci più. Mi sembra chiaro, tieni presente questo. Il mio sogno è che questi visori stanno realizzando, e non solo questi visori, ahimè, chiunque può verificarlo, ho una serie di aggeggi abbastanza diabolici a casa, che simulano addirittura la plancia di comando di astronavi. Il mio sogno era diventare Han Solo quando ero piccolino, e ce la sto facendo, ce l'ho quasi fatta. Diciamo. Incredibile. Emilio, tra l'altro c'è Pietro, un ascoltatore, che al 349-238-6666 ci ricorda giustamente il film Strange Days, un film di una ventina d'anni fa, e però qualcosa si è verificato con questi visori. E non è un caso, bravissimo l'ascoltatore, non è un caso che la buona Catherine Bigelow, che era la regista del film, in qualche modo spacciasse, e uso volutamente questo termine, la realtà virtuale come fosse una droga del futuro, perché molti, come giustamente stavi facendo notare anche tu poco fa, molti intravedono anche dei rischi e delle minacce da questo tipo di realtà che in effetti separa, o meglio crea, un universo parallelo rispetto alla vita reale. Dal mio punto di vista questa è una possibilità in più, di fatto il tempo deve ancora dimostrarlo, siamo davvero agli inizi di una tecnologia che secondo me aprirà un pochino una nuova epoca, per cui è un pochino presto trarre delle conclusioni. Vero, verissimo. Grazie a Emilio Cozzi, ripeto il tuo account di Twitter, @ addio e grazie per averci portato in questo mondo virtuale, grazie Emilio. A voi, a prestissimo. Noi ci ritroviamo tra poco dopo il giornale radio delle 17.